falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Anche oggi raccontiamo una storia di musica italiana, di grande musica italiana. Parliamo di un cantautore che dovrebbe probabilmente essere ricordato molto di più dalle TV, dai media, non solo per le canzoni meravigliose che ha scritto, ma anche per il fatto che per primo ha fatto rock partendo dalla provincia italiana e facendo diventare determinate radici geografiche la base naturale della sua musica. E forse non viene ricordato abbastanza dalla TV e dai media, ma ha ancora un sacco di gente che giustamente lo ama, e tra queste persone molte ci hanno scritto chiedendo di parlare di lui. Noi ne abbiamo scelto uno che si chiama Claudio. Buongiorno Claudio. Ciao Enrico. Ciao Claudio. Allora, a te l'onore e l'onere di presentare la puntata. Di chi parlerò oggi? Ma oggi parliamo di Ivan Graziani, e io te l'ho proposto perché secondo me è stato un grande cantautore. Sì. Originale, capace di scrivere sia pezzi rock che ballate, spesso molto ironico con i testi. A me è sempre piaciuto molto, e mi piacerebbe che chi non l'ha conosciuto, magari prendendo spunto da questa puntata, potesse magari incuriosirsi a lui. Grazie, grazie Claudio. Tu l'hai visto dal vivo Ivan Graziani? L'hai in concerto? Era uno spettacolo, l'ho visto diverse volte, era uno spettacolo. Era uno spettacolo, sì, lui era veramente, dal vivo dava il meglio di sé. Grazie ancora Claudio, buon ascolto di puntata. Grazie a te Enrico, buona giornata. Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Ivan Graziani, quindi un grande cantautore, un grande musicista, un grande chitarrista. Difficile dire se prima cantautore o prima chitarrista, perché la sua natura, il suo carattere non convenzionale e anticonformista ne faceva anche un personaggio difficile da etichettare. Da dove gli arrivasse questo carattere lo chiediamo subito a un giornalista e saggista musicale, Mario Bonanno. Ma io credo che arrivi innanzitutto, e questo la dice lunga sulla, così, sul personaggio, sui generis, dal fumetto porno, dal fatto che lui disegnava strisce per campare, credo per ragioni alimentari, di tipo pornografico. Quindi Graziani era un uomo assolutamente libero e fuori dagli schemi, no? E per cui anche il suo approccio musicale è stato, credo, difficilmente inquadrabile. Credo l'imprinting sia quello del fumetto, della grafica, del disegno, e quindi di una mente abbastanza colorata, questa mente colorata che poi emerge anche dal look, se vogliamo, quegli occhiali rossi che ne sono diventate l'impronta, che allora nessuno assolutamente portava, quella voce in falsetto che non si sa se c'era o ci faceva, e poi queste melodie borderline, un po' rock, un po' pop. Vieni a chiedere di luna, far l'amore con me. Sulla nascita di Ivan Graziani c'è addirittura una specie di leggenda, perché qualcuno scrisse che era nato in mezzo al mare su un traghetto tra Olbia e Civitavecchia, e che addirittura il nome Ivan potesse derivare dal fatto che letto al contrario diventa navi. Non è vero, anche il fratello ha smentito questa notizia comunque intrigante. La verità è che quel 6 ottobre 1945 lui nasce con i piedi ben piantati nella sua Teramo. Però in effetti all'origine di questa diceria c'è il fatto che la madre era sarda e il padre abruzzese, un padre Paolo che Ivan racconterà nelle sue canzoni, un fotografo di matrimoni con lo studio a Teramo. Da ragazzino Graziani ha due passioni precoci, il disegno e la musica. Non è la chitarra il suo primo amore, la batteria è il primo strumento che suona, poi scopre quello strano strumento a 6 corde. Sì, perché il fratello Sergio suona la chitarra e la lascia appoggiata nell'angolo della camera. È una specie di richiamo delle sirene. Ivan la imbraccia e inizia a strimpellarla, si innamora. È un amore quasi carnale che ha a che fare con la forma stessa dello strumento. Sinuosa, da accarezzare come il corpo di una donna, anche se la prima chitarra di Ivan non è proprio come una bella donna. La prima chitarra che ho avuto è stata una Carmelo Catania. Orrenda. Aveva un manico che avrebbe potuto essere usato come arco per le frecce. Di bello aveva il colore del legno, molto allegro. Inizialmente la suonavo soltanto per invidia. Era di mio fratello maggiore che andava a scuola di chitarra. Quando ho potuto dimostrare che anch'io sapevo farci qualcosa, in famiglia nessuno se lo aspettava. A Teramo, intorno al 1960, si svolgevano delle vere e proprie sfide chitarristiche tra i quartieri. Era il periodo in cui si ascoltavano gli Shadow, prima ancora dei Beatles. Chi riusciva a suonare pezzi come Guitar Boogie nella maniera più veloce, spigliata e divertente, vinceva. E così via, di settimana in settimana, finché non ne arrivava uno più bravo. E quel tipico suono degli Shadow che tanto influenzò i musicisti degli anni a venire, Ivan impara a farlo bene. E quella chitarra gli apre un mondo, un microcosmo, si chiude tutto il tempo che può nel gabbiotto fotografico del padre in cortile per suonare. E le sue scelte scolastiche sono determinate dall'altra sua passione, il disegno. Frequenta l'Istituto d'Arte a Ascoli Piceno e poi l'Accademia delle Belle Arti a Urbino, dove si diploma in pittura nel 1968. Ho scelto questa scuola perché era l'unico luogo nei dintorni dove vigeva una certa apertura mentale. In realtà non avevo nessuna intenzione di fare il pittore, per cui mi misi a disegnare cartoon. Per 2 anni e mezzo lavorai moltissimo con la Svezia. Riuscii a guadagnare fino a 120.000 lire a striscione. Uno di quei giornali del cavolo aveva scoperto che da quelle parti erano stufi di fotografie ginecologiche. Preferivano disegni che consentissero alla fantasia di spaziare. I miei disegni non erano come quelle porcherie che si vedono oggi in Italia, semplicemente ricalcati dalle fotografie pornografiche dei giornali. I miei personaggini ricordavano quelli che si possono vedere su Linus, solo che erano pupazzetti scopatori. Ma la strada di Ivan Graziani, la strada principale, sarà la musica. Del protagonista della nostra storia di oggi in TV non si parla quasi mai, è un destino che purtroppo non è inedito per molti artisti italiani, eppure Ivan Graziani è stato una figura di primissima grandezza nella storia musicale di questo paese. E forse il fatto che fosse difficilmente inquadrabile, per niente disposto ai compromessi, lo ha penalizzato da vivo e lo penalizza anche oggi. Un uomo libero, la cui libertà non sempre è stata compresa e gradita, e forse anche il suo carattere diretto non lo hanno aiutato. Esordisce nel periodo delle scuole superiori, quando frequenta un coetaneo che studia il pianoforte. Questo ragazzo si chiama Gianni Dale, figlio di Nino Dale, che era un cantante sassofonista noto in Abruzzo negli anni 60. C'è un complesso che nasce, i modernist, e Graziani ci entra a 18 anni e i virtuosismi del giovanissimo chitarrista colpiscono Dale a un concorso scolastico, quando sul palco Graziani dà il meglio di sé e così Dale lo assume. E quell'incontro Ivan lo racconterà in una canzone dal titolo Nino Dale and his Modernist. È un'esperienza che lo porta in giro tra navi da crociera, feste di paese, esperienza che termina quando Ivan si deve iscrivere o vuole iscriversi all'Accademia delle Belle Arti di Urbino. Si trasferisce, però prosegue a coltivare la strada della musica. Nel 66 fonda un altro gruppo, Ivan e i Saggi, con Velio Gualazzi, tra l'altro padre di Rafael Gualazzi e Walter Monacchi. È da qualche tempo che in Italia si apprezzano i nuovi gruppi beat che arrivano dalla Gran Bretagna, e così anche in Italia nascono molte band, allora si diceva i complessi. la band di Graziani non è fortissima sul fronte strumentistico, a parte le capacità con la chitarra dello stesso Ivan, e Gualazzi sta ancora imparando a suonare la batteria, e Monacchi con il basso, insomma, non è Jack Bruce, ma la determinazione c'è. La band partecipa al torneo Davol Italia Beat nel 66 e cambia nome in cerca del salto di qualità, e così diventano gli Anonima Sound. In quel periodo ho imparato tutto. Quello che so fare oggi, quello che faccio, è nato da lì, in quella metà degli anni 60. Non ho mai rinnegato quel passato e mai lo farò. Abbiamo fatto il primo LP con tutti i brani originali della storia dei complessi musicali italiani. Il disco però non venne mai realizzato. Primo 45 giri, Fuori piove sul lato A, Parla tu sul lato B. Proprio quest'ultimo brano piace alle radio, in particolare Arbore Buoncompagni, che in quel periodo dettano legge a livello di opinioni, insomma sono veramente i vate della nuova radiofonia che accompagna la musica. I passaggi radiofonici garantiscono al pezzo un po' di popolarità e farà guadagnare questa popolarità la partecipazione al Cantagiro del 68 agli Anonima Sound, Cantagiro presentato da Nuccio Costa. Si classificheranno ultimi. Gentili amici in ascolto, vi parliamo dalla grande piazza di Ostia, questa sera particolarmente gremita. Abbiamo una folla enorme non solo qui all'interno dell'arena, ma anche al di là delle transenne in tutta la piazza, e vi diamo il benvenuto al secondo appuntamento radio-televisivo con il settimo Cantagiro. Migliori di questa serata con il girone B, per il quale vi presentiamo l'Anonima Sound. Sì, vorrei rubarla. L'Anonima Sound esce con altri singoli, Josephine, Ombre vive, firmata da Mogol. Nel 69 una seconda partecipazione al Cantagiro proprio con Josephine. Intanto nella band entra Roberto Carlotto alle tastiere e vanno, come molti in quegli anni, verso un pop progressive, e il giovane Ivan già soffre il poco spazio che le case discografiche lasciano agli artisti. A questo si aggiunge qualche lite interna alla band, poi arriva il servizio di leva e la fine delle esperienza con l'Anonima Sound. Suonerà due anni dopo con loro per un disco della band, ma di fatto è un momento che si chiude. 1972, Ivan Graziani sposa Anna, con la quale si trasferisce a Milano, che è in quel momento il centro per la musica, per la discografia italiana. Lui pubblica alcuni singoli con gli pseudonimi di Rockleberry Roll eppure Ivan Transport. Collabora come autore turnista con molti artisti, da Herbert Pagani alla PFM, Lucio Battisti, De Gregori, Venditti. E il 73 è l'anno dell'album di esordio, La città che io vorrei, a cui fa seguire nel giro di un anno un secondo lavoro in inglese, un terzo album strumentale, Tato Tommaso's Guitar, dedicato alla moglie per la nascita del primo figlio Tommaso. L'esperienza negli studi della numero uno, che in quegli anni è una vera e propria fucina di talenti, è un laboratorio, è il regno di Mogol. L'esperienza è fondamentale perché da lì nasce la collaborazione con Lucio Battisti e con il suo gruppo di musicisti. Le registrazioni hanno luogo al Mulino, una cascina che Mogol ha trasformato in uno studio all'avanguardia vicino a Como, uno studio che rimase mitico per decenni. È una specie di comune in quegli anni, dove gli artisti, le famiglie vivono assieme. Un'esperienza importante, perché da questa situazione e con quei musicisti che nasce nel 76 la Ballata per quattro stagioni, che non è il miglior album di Graziani, ma apre le porte al periodo successivo, quello del trionfo vero e proprio. Dopo una fruttuosa collaborazione con Venditti, Ivan realizza l'LP I Lupi, con il primo vero brano da hit, Lugano addio. Lugano addio, cantavi mentre la mano mi tenevi. Siamo nel 1977 e la canzone è una di quelle che risuonano dai jukebox durante l'estate, e rimane in classifica per 10 settimane, l'album per 38 settimane, e arriva alla 16ª posizione. Nel 1978 esce Pigro, che è un album più maturo con testi originali, storie di vite condizionate, parla appunto di pigrizia. Ci sono pezzi come Pigro, Paolina, Gabriele D'Annunzio. Con Pigro inizia il primo vero tour di Graziani, arrivano le apparizioni televisive, quelle che lui non ama un granché. Questo è un passaggio a Disco Ring, presentato da Gianni Boncompagni e Roberta Manfredi, figlia di Nino. Vabbè, bene. Chi c'è? Chi c'è? Ivan Graziani. Senti, Ivan Graziani prima di tutto è chitarra autore, questo nuovo termine, no? Che cantante, e autore. E le chitarre le suona tutte, beh, ma proprio tutte, capito? Beh, non esiste una chitarra. Basta guardare qua, che campionario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi le altre le abbiamo messe dietro, no? Perché sì, sono troppe. Sì, perché sennò... Dunque, Ivan Graziani viene dall'Abruzzo, è il primo cantautore abruzzese, perché non ci sono solo esponente altri, dell'Abruzzo, sì. Sì, no? Sì, non c'è nessun altro, meno che ha tentato la sorte. Questo sì. Abruzzo sound, diciamo così. La base della tua musica è rock, sempre, parte sì, sempre da lì. Come tutti quelli che si sono formati nel mio periodo, cioè a metà degli anni 60, abbiamo subito l'influenza degli americani e degli inglesi. Lugano, addio. Beh, poi in quegli anni arrivava anche Mimmo Locasciulli, cantautore abruzzese anche lui. Comunque in quell'occasione Ivan Graziani spiega il senso della pigrizia alla base del suo LP. Ma secondo me la pigrizia è la malattia di questo secolo, cioè parlo di pigrizia mentale, non assolutamente fisica. Sì. Perché, e quindi? Quindi la persona pigra è portata a giudicare senza rendersi conto delle cose, diventa aggressiva e quindi violenza. E quindi sai benissimo, la violenza com'è, questo periodo... è deprecabile da condannare. Stiamo parlando di Ivan Graziani, un artista scomparso e purtroppo non sempre ricordato dai media, eppure era un grande chitarrista, un grande cantautore, forse era un personaggio troppo anomalo, difficilmente etichettabile, aveva dei testi molto diretti, un uomo senza filtri, e questo non fa mai troppo piacere all'establishment musicale in questo paese. Molti credono che io sia antipatico, burbero e fondamentalmente orso. In realtà ho un carattere molto sincero, particolare e un po' instabile, tipico dei segni d'aria. Se la mia chitarra piange dolcemente, stasera non è sera di vedere gente e giochi nella strada che ho chiusi dentro al petto, mi voglio ricordare. Siamo nel 79, gli anni del successo per Ivan Graziani sono proprio quelli. Esce l'album Agnese Dolce Agnese, che si piazza bene in classifica, è una ballata perfetta come Lugano Addio, arricchisce un periodo fatto di molti concerti e di presenze sui giornali, è una fase molto prolifica per il cantautore abruzzese. Agnese Dolce Agnese rimane in classifica 15 settimane. L'anno dopo arriva nei negozi l'album Viaggi e Intemperie, che ha ancora un riscontro molto positivo di pubblico. Le canzoni seguono un filone tipico di Graziani. Ci sono canzoni molto dolci, delle ballad, Firenze Canzone Triste, per esempio, che da molti è ritenuto il suo brano più famoso. Poi ci sono canzoni rock, però Firenze Canzone Triste arriva fino alla quinta posizione in classifica, cosa insomma anomala per un cantautore del suo peso. La storia è ambientata nella Firenze studentesca, è una ballata d'amore ma molto originale. Firenze, lo sai, non è servita a cambiarla. Viaggi e Intemperie è un album importante e Firenze Canzone Triste non è l'unica canzone di rilievo, perché ci sono Isabella sul treno, Dada, Radio Londra, Angelina e soprattutto Tutto questo cosa c'entra con il rock and roll, una di quelle canzoni insomma che trovano linfa vitale dall'esecuzione on stage, soprattutto per uno come Ivan Graziani. Lui però traccia storie di personaggi diversi da quelli raccontati dalla canzone italiana fino a quel momento. Sono personaggi carnali, complicati, sembrano disegnati in un fumetto, come forse ci dirà il saggista musicale Mario Bonanno. Graziani è tra le righe, in maniera sicuramente meno aulica che altri suoi colleghi, è stato capace però di essere tra gli autori forse più incisivi, più ficcanti. L'Abruzzo era il suo West ed era un Abruzzo popolato da questi gangster, uomini, donne, gente sessuomani, ma assolutamente concreti, reali, persone che lui dipingeva tra l'altro con una capacità quasi da illustratore di storyboard, no? Il canzoniere di Graziani è pieno zeppo di stralci di cronaca, no? Ci sono le storiacce nere, per esempio, che raccontano di uomini beffati, di donne comunque sfruttate in un senso o in un altro. I testi delle canzoni sono fondamentali. I miei nascono all'origine come racconti. Dal 1976 in poi ne ho raccolto un bell'archivio, da Firenze ad Agnese fino all'Ippocampo. Gli anni del successo e degli impegni, come un disco fatto a tre con Ron e Goran Kuzminak, in origine doveva essere fatto a quattro e i quarti dovevano essere proprio i Decibel, poi insomma successero diatribe legali a noi Decibel, andarono avanti in tre e fecero questo Q-Concert, appunto Ron Graziani e Kuzmina, con una bellissima canzone Senza Inganni. L'anno dopo esce Seni e Coseni, classico disco nel quale ci sono entrambe le anime di Ivan Graziani, da un lato canzoni delicate, dall'altra pezzi molto grintosi, si affievoliscono un po' i risultati, almeno a livello di vendite, e così come nel disco successivo, che è dell'82, si chiama Parla Tu, dove però c'è per esempio una canzone come Il chitarrista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista, che è insomma una di quelle canzoni che sono rimaste nel tempo. Poi c'era Signora bionda dei ciliegi, Navi, insomma canzoni che i fan di Ivan Graziani ricordano ancora molto bene. Abbiamo adesso un giovane promettente musicista, cantautore, l'abbiamo anche visto a Sanremo nel 2014, però questo giovanotto ha l'onore e l'onere di portare questo cognome, Graziani, Filippo Graziani, e tra l'altro di andare anche spesso sul palco a suonare delle canzoni di Ivan Graziani. Ciao Filippo. Ciao. Intanto volevo sapere quali sono i pezzi di tuo padre che piacciono di più nei concerti dal vivo. Ce ne sono tanti, perché sì. devo ammettere che l'affetto che ci dimostrano nelle occasioni in cui suoniamo le canzoni è veramente, veramente molto grande. Però ci sono dei pezzi che sicuramente attirano l'attenzione molto più rispetto a altri, no? Anche perché sono magari trascinano, certo, nel... Penso che Pigro è una di quelle canzoni, certo, quella dove insomma la gente proprio si diverte a cantare. Poi dopo ovviamente i classici, ovviamente Lunga Addio, Firenze, sono Agnese, proprio, certo, quelli che poi magari si cantano proprio squarciagola loro. Quindi. E che effetto fa cantare queste canzoni? È una sensazione forte, immagino. Sì. Diciamo che all'inizio quando ho iniziato, tanti anni fa, aveva un po' una valenza un pochino più importante, più profonda, se vuoi, da un certo punto di vista. Poi andando avanti sono riuscito, insomma, adesso sono un po' tue, cioè a distaccarmi un pochino dal fattore sentimentale e finalmente godermi le canzoni, certo, perché quello è una cosa che a me piace tanto, perché alla fine è un po' come riscoprire il tuo patrimonio andandolo a riscoprire, certo, nelle piazze, no? nei teatri. Cioè, di che pubblico c'è ai vostri concerti? È veramente estremamente eterogeneo, cioè, parte dai bambini ai ragazzi magari della mia età, ma anche più giovani, insomma dai 20 ai 30 anni, e poi si arriva anche, insomma, a chi seguiva papà nei concerti ai tempi, quindi certo. La sua generazione, ecco. Però sono molto contento, perché non sai mai chi ti trovi davanti, no? Sempre una grossa sorpresa, certo, una grossa soddisfazione, soprattutto nel vedere le generazioni più insomma più vicine alla mia, che si appassionano a queste canzoni. Senti Filippo, quando tu eri sul palco di Sanremo nel 2014, insomma, sicuramente hai pensato al fatto che eri il secondo Graziani a salire su quel palco, no? Che tipo di sensazione è una cosa del genere? Cioè, responsabilità? Sì, sicuramente sì, nel senso, quando sono uscito sul palco la prima volta, il primo giorno di prove, no? Che poi è sempre quello un pochino più emozionante, sì, perché sì, certo, ti trovi veramente, dici, oh, sono a Sanremo veramente. È vero, non mi hanno preso in giro. Sì. Esatto. Ed è una bellissima sensazione, e lì mi ha dato l'idea un po' di una di poter essere parte di una, no, di una generazione, certo, di una storia, no, nuova di cantautori, di una progenie, no, veramente. Quindi è stata una bella sensazione. Ovviamente la responsabilità era tanta, infatti ho proposto una canzone, mi ricordo, della quale sono molto felice, perché è una, insomma, una canzone che non era quella ci sta a provare, come dire, esatto, Roma. Non era una roba del genere, esattamente. Quindi insomma, sono contento di, anche perché papà l'ultima volta che c'è stato, tra l'altro, papà nel 94, io nel, sì, 2014. Ah, certo, quindi, è vero. Questa è incredibile, no? Coincidenza. Quindi papà aveva portato Maledette Malelingue, come no? Quindi era una canzone abbastanza scomoda anche, sì, quella, abbastanza. Quindi insomma sono stato contento di portare avanti questa scomodità. Certo. Filippo, ti ringrazio e in bocca al lupo, e spero di vederti sul palco quanto prima. Reciproca la cosa. Ciao Filippo. A presto, grazie mille. Se la mia chitarra piange dolcemente, stasera non è sera di vedere gente. Ivan Graziani partecipa due volte al Festival di Sanremo, la prima nell'85 con Franca ti amo. Non la ricorda come un'esperienza piacevole, anche perché figlia di una scelta sulla quale probabilmente lui non era convintissimo. Si piazza a fondo classifica, ma questo non è grave, insomma, molte canzoni belle sono arrivate in fondo al Festival di Sanremo. Però comunque il rapporto di Graziani con Sanremo non è proprio d'amore, come si può intuire da questa intervista a una radio locale. Adesso quelli che mi ascoltano mi perdoneranno, dico, però una sagra similare, eccola, che fanno tutti gli anni in un paesino vicino dove abito io, a Talamello. Praticamente mettono delle rane o dei rospi sopra un carretto e poi devono correre con questi carretti, e se un rospo salta giù uno perde, e vince chi riesce a portare il rospo più grosso e peggiore al traguardo. Vedremo la Caselli ricantare, sperando che non, che la protesi non gli caschi durante l'esecuzione del brano. Vedremo, dico, Caterina Caselli ha avuto una vita splendida, devo dire, no? Una donna che ha avuto tanto successo, ha avuto un marito che le ha voluto bene, ci ha avuto un pacco di soldi, dico, ma anche due di pacchi, perché magari è mai possibile che bisogna togliere un posto a Sanremo che potrebbe essere molto più utile. Lo sai cosa fa, lo sai con chi va e con chi si vede. E beh, con interviste così non è che proprio la strada del successo è spianata, eh? Poi Graziani torna a Sanremo dopo molti anni e molti dischi nei quali, insomma, non riesce a ripetere i risultati dei suoi momenti d'oro. Siamo nel 94 e a Sanremo porta un brano molto interessante che si chiamava Maledette Malelingue, arriva settimo ed è un buon viatico per l'album omonimo Maledette Malelingue, che vende molto bene. È una canzone dedicata a tutti i piccoli paesi dove gli adolescenti vengono criminalizzati quando fanno qualcosa che non rientra nel rituale dei grandi. Questa canzone è la prosecuzione ideale di Pigro, che metteva in guardia: attenzione a non usare violenza mentale nei confronti degli altri, anche quando è camuffata da cose costruttive come la morale e la saggezza. Tutte cose a cui, peraltro, io non ho mai creduto. Vuoi sapere i tuoi limiti? L'ultimo lavoro di Ivan Graziani è un album dal vivo che si chiama Fragili Fiori Livan, è un album del 95, ci sono alcuni brani inediti e uno di questi, La Nutella di tua sorella, Graziani duetta con un amico di sempre, Renato Zero. Poi c'è un album in cantiere, però Graziani non riesce a inciderlo perché il primo gennaio del 1997 Ivan Graziani muore di tumore al colon, è un tumore che ha scoperto 2 anni prima, ha solo 51 anni, muore a casa sua a Nova Feltria, i medici l'avevano fatto tornare in famiglia per le feste di Natale, è sepolto nel cimitero locale insieme a una delle sue 200 chitarre, una Gibson, e al suo gilet di pelle con il gancio al quale attaccare la chitarra. Non avrai mai una persona da amare. Dalla sua scomparsa in poi sono stati registrati e pubblicati album postumi, commemorativi, celebrativi, anche se, come ho detto più volte oggi, forse Iva Graziani meriterebbe di essere ricordato in maniera, come dire, un pochino più sollecita da parte dei media, perché veramente si tratta di un musicista unico nel suo genere. A tener vivo il ricordo di Ivan, oltre naturalmente a tutti i fan, ne abbiamo parlato prima con Filippo, ha uno zoccolo duro molto numeroso di persone che hanno voglia di sentire le sue canzoni, però c'è la moglie Anna e i figli, Filippo l'abbiamo sentito, e c'è Tommaso che è batterista, se non sbaglio. Sì, esatto. E tu hai fatto anche a tempo a suonare con tuo papà? Io sì, fortunatamente sì. Nell'ultima tournée che ha fatto nel 96, io avevo 23 anni, ero molto giovane. Caspita. E inesperto, e per sì, qualche mese, diciamo, è stato, non ti nego, proprio un sogno realizzato per me, perché ho sempre visto da dietro il palco quello che succedeva, poi trovarsi lì a una certa età è veramente certo, un sogno, guarda. Ma lui com'era come capo orchestra? Devo dire che abbiamo passato un periodo bellissimo insieme, io e lui, a fare delle prove, perché poi io ero veramente giovane, avevo 23 anni e anche con poca esperienza, e quindi lui probabilmente voleva essere sicuro di, al di là della gioia magari, di portare certo, il figlio di, in tournée, perché è delicata, esatto, non voleva che qualcuno dicesse sì, vabbè, lui lo sta lì perché è suo figlio, ma quella cosa lì proprio me immagino, subito in chiaro, è stato evitato sin dall'inizio. Certo, però certo, io guarda, ho viaggiato sempre con i musicisti, ho fatto vita da tournée come qualsiasi altro batterista che poteva essere lì in quel momento. Fantastico. Lì, senti, ti abbraccio, un abbraccio anche a Anna, grazie a tutti ragazzi. Grazie a voi, grazie. La vita di Ivan Graziani, uomo ribelle senza peli sulla lingua, musicista difficilmente etichettabile, grande chitarrista, grande performer e quindi persona piena di colpi d'ala. Se volete mandarci dei commenti o segnalarci altre vite su cui puntare il mio microfono, fatelo al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure venite a trovarmi, a trovarci sui miei e sui nostri social, insomma, se volete ci arrivate. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Giovanni Savarese.